762. Gelato di ciliegie visciole. Ciliegie visciole chilogrammi 1, zucchero grammi 250, acqua decilitri 2, odore di cannella. Levate i noccioli a grammi 150 delle dette ciliegie, senza guastarle troppo, e mettetele al fuoco con grammi 50 del detto zucchero e con un pezzetto di cannella intera che poi getterete via. Quando saranno siroppate, cioè quando avranno perduto il crudo e le vedrete aggrinzite, mettetele da parte. Guastate con le mani i restanti grammi 850 di ciliegie, pestate nel mortaio un pugnello dei loro noccioli e rimetteteli tra mezzo, passate poche per volta da un canovaccio strizzando forte queste ciliegie disfatte per estrarne il sugo, e gli scarti che restano metteteli al fuoco per dissugarli coi suddetti 2 decilitri d'acqua. Fateli bollire 4 o 5 minuti, poi passateli dallo stesso canovaccio ed il liquido estratto unitelo al precedente. Mettete tutto questo sugo al fuoco con 2 prese di cannella in polvere e quando sarà per alzare il bollore versate i restanti 200 grammi di zucchero, mescolate, fatelo bollire per 2 minuti e passatelo dall'ostaccio. Mettete il sugo passato nella sorbettiera e quando sarà ben gelato mescolategli tra mezzo le ciliegie siroppate in modo che vengano sparse ugualmente. Servite il gelato in bicchierini e vedrete che per la sua bontà sarà da tutti gradito. Questa dose basterà per 8 persone.